E in occasione dell'uscita di Sindacato dei Sogni dei Tre Allegri Ragazzi Morti abbiamo al telefono con noi Davide Toffolo. Ciao Davide. Ciao. Ciao. Allora, iniziamo subito. Si dice che non si giudicano i libri e neanche gli album dalla copertina, ma la copertina del vostro nuovo album è talmente bella che ce ne devi assolutamente parlare. Ti ringrazio. Beh, insomma, non si giudica il contenuto dalla copertina, non sono completamente d'accordo comunque. Nel senso che la copertina è una cosa che fa parte dell'idea e anche dell'arte proprio del disco. Comunque, questa che c'è in copertina è una porcellana italiana che abbiamo trovato in un sito americano in California, ed è un po' la parafrasi di tutto il disco, perché il disco è un disco di musica quasi psicadelica americana della West Coast, e noi siamo una porcellana italiana, cioè un gruppo bellissimo e fragile anche contemporaneamente. Poi, visto che siamo alla radio, ve lo dico com'è, racconto un po' com'è fatta questa copertina. Questa copertina sono tre gattini di porcellana, una porcellana, come dicevo, degli anni 70, che hanno un decoro sulla faccia, delle macchie sulla faccia, che in realtà, se le giri, sono un teschio. Ah, perfetto, quindi ecco. Esattamente come la vostra maschera storica. Esatto, ma rimaniamo sul visivo. Sono usciti già tre videoclip, anche questi caratterizzanti, particolari. Cioè, vuoi parlarci anche dei videoclip? Allora, i tre videoclip accompagnano i tre brani che hanno anticipato l'uscita del disco. Il primo sono principalmente fatti in animazione, almeno Bengala è fatto in animazione, Caramella è fatto in animazione e Calamita è un fondale disegnato dove c'è una ballerina che balla. Che cosa posso dirvi dei video? Sono tutti e tre, i primi due perlomeno, sono fatti in animazione da due animatori diversi, uno più bravo dell'altro. Uno si chiama Kabu. Quando abbiamo immaginato un video psicadelico ci è caduto subito il nome su di lui, c'è l'idea di farlo fare a lui, che avevamo già visto in azione con Populus e altri artisti. È un animatore che è italiano, che abita a Londra, molto psicadelico sia nella tecnica che proprio nella scelta dei colori. Abbiamo parlato con lui un po' di quello che volevamo, di questa idea del multiplo, di questa idea dei mascherati, no? Adesso i Ragazzi Morti sono un gruppo mascherato, ma non sono neanche l'unico gruppo mascherato, quindi dentro il video appaiono i Residents, i Kiss, Mischeta, Sil Tamburo, una serie di mascherati della musica. L'altro video invece, che si chiama Bengala, è uscito prima di Natale, a dicembre, ed è una natività, è stato fatto da Michele Bernardi, che è il nostro animatore col quale abbiamo fatto la maggior parte dei video in questi anni, ed è un video secondo me molto riuscito. La storia la conoscono tutti, è la storia della natività, però è una natività di gatti. Beh, non vi dico niente del finale del video, ecco. Niente, esatto. Spoiler. Bisognerà andare a vederselo. Ascolta, certo. Questo album, sentito, l'abbiamo detto, Sindacato dei Sogni, hai già anticipato un po', però che sonorità proponete, che temi avete trattato? La sonorità, allora, il suono che è venuto fuori è un suono, come dicevo, che ricorda un certo tipo di psicadelia dei primi anni 80 californiana. C'è dentro anche un po' di Grateful Dead, perciò qualcosa di precedente, anche qualche modalità 60 che è tipica anche dei Ragazzi Morti, ma il suono è nato dentro uno studio, che è lo studio di Matt Bordin, che è un musicista italiano psicadelico che ha suonato con i Mojo Matic, che attualmente suona con Squadra Omega. ed è un sound che è nato proprio da questo incontro fra noi, lui e il suo studio, che è uno studio con uno sound particolare, ha una strumentazione vintage, anche se io non sono proprio, se non siamo così ossessionati dal vintage, però effettivamente questi strumenti hanno dato al sound del disco qualcosa di veramente specialissimo. Sì, ma questo album, sono presenti altre collaborazioni con artisti? Altri musicisti? Sì, ci sono strumenti che non abbiamo mai usato nella nostra discografia, come il sassofono, in particolare suonato da Francesco Berzati, che è un jazzista italiano che abita a Parigi da tanti anni. E poi c'è un flauto traverso, che è un strumento incredibile secondo me, suonato da Ruben, che è in realtà un batterista di area hardcore milanese, che però è un flautista incredibile. E poi c'è una armonica bocca che era già stata presente in un disco che si chiama Mostre Normali, ma che abbiamo usato poco nella nostra discografia. E c'è Adriano Viterbini alla chitarra in un brano, e c'è Nicola Manzan, Bologna Violenta, che suona il Rhodes in alcuni brani. E poi qualche sintetizzatore antico, proprio di quelli anni 70. Certo. Senti, invece abbiamo visto sulla vostra pagina Instagram che con La Tempesta Dischi, la vostra etichetta, avete lanciato una sorta di talent, un contest rivolto a delle band emergenti per aprire uno dei vostri prossimi concerti. Ce ne vuoi parlare, che ci interessa particolarmente questa cosa? Sì, allora, è un talent particolare, nel senso che I Ragazzi Morti sono sempre stati una identità collettiva, dovuto anche al fatto che la maschera in qualche modo non ci rende personalmente esistenti, ci rende un'idea. L'idea è quella di declinare le canzoni dei ragazzi morti in modi diversi, in mondi anche diversi, un po' come, per darti un'idea, un po' come, non so se hai visto la versione nuova dell'Uomo Ragno, che ha questa cosa del multiverso. Sì, certo. Ok, sarà più o meno la stessa cosa. Stiamo cercando quelli che saranno i prossimi Allegri Ragazzi Morti, questo praticamente. Possono partecipare sia singoli che gruppi, basta andare su su Instagram, su La Tempesta, Talent La Tempesta, scusate. Perfetto. E poi mettere un hashtag che invece è Talent Tarm, con una T sola, Talent Tarm. Con queste cose qui basta fare tre filmatini da Instagram di un minuto l'uno, dove si suonano pezzi dei Ragazzi Morti, e si può partecipare, indicare il luogo, il club nel quale si vuole suonare rispetto alla scaletta al calendario delle date che ci saranno, e poi indiscriminatamente noi decideremo chi suona con noi. Perfetto, rilanceremo sicuramente questo talent nei prossimi giorni. È un'iniziativa Grazie. Effettivamente molto interessante. Voi invece... Sì, ma poi stanno venendo fuori delle cose incredibili. Se andate lì in rete e volete anche farle sentire, sono alcune cose sono veramente incredibili. Nell'insieme sono tutte incredibili, ma alcune specifiche sono proprio belle. A maggior ragione, allora, che continuino anche i nostri ascoltatori a contribuire. Senti invece, Davide, il concerto di anteprima dell'album l'avete fatto il 24, perché l'album è uscito il 25 di gennaio, però avete in programma una serie di date, passerete anche da qui? Da Bologna, dici? Sì. Sì, passeremo all'Estragon, non ricordo precisamente la data, però la trovate in giro. L'Estragon è il posto dove forse abbiamo fatto i concerti più belli in questi anni, e perciò ritorniamo in quel luogo lì. La festa di Milano che hai annunciato in realtà non è stato proprio il nuovo concerto dei Ragazzi Morti, era proprio una festa per il disco, è stata una cosa molto speciale soprattutto per le persone che c'erano, chiaramente. È stato una specie di racconto visivo della costruzione del disco, insomma, una cosa che ho voluto io, molto speciale secondo me. Perfetto, allora noi ti ringraziamo Davide per essere stato con noi ai nostri microfoni. Ricordiamo il titolo dell'album, Sindacato dei Sogni, vi invitiamo ad andare ad ascoltarlo e ancora una volta grazie.